Momenti di passione, giornate di dolore. Ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera, noi la faremo. Share.